Maria, attenzione signor Battisio. Hola, hola, hola, Gian Maria Battisio, attenzione signor Battisio. Hola, canale 23, c'è nessuno? Gian Maria, attento Battisio, non c'è, è uscito. Buonasera. Oi, ci sei allora? In agguato, ah. Che attacca che in agguato sono. Allora Gianmarì. Ma, guardando la TV a Geruscucci, cosa vuoi fare? Perché sta. Non c'è altra cosa da fare, solo guarda la televisione e basta, boh. È come se ne rubrefitto. Adesso iniziando a fare un po' di freschetto, Sì. Iniziamo con il freschetto. Adesso comincia la titia fra poco. Allora ci lamentiamo perché è troppo freddo, vogliamo caldo. Sarà iniziato così questa settimana. Adesso pioggia, però mi sembra che la pioggia. Ma sì, stia arrivando. C'è il vento, che forse porterà l'acqua. Il vento di maestrale, è iniziato da Somanzano. Da Londra si è iniziato a far vento. Vai. Ma almeno che porti un po' d'acqua, gatto, a rinfrescarci un po'. Sì, se no ti la buttare a quattro lungo. Come il solito, gatto. A Sassari, gatto, lo elimina, antipatico lei a Sassari. Agli altri posti l'acqua si sta facendo sempre. Sai com'è qua, bisogna sentircela piano piano l'acqua. Ce la sta facendo sospirare qua Sassari. Beh, non lo so io, cazzo. Ho levato i droppi anche il logo. E io che nulla. Che tra un po' dividi un po' con la bacia e un po' con l'altra. Accontentati a tutti, invece no. Salvatore comincia ad essere un po' birichino. Diceva per magietà un po' che dureva. Qua bisogna che ce la innaffiano loro invece che Edo. Noi siamo innaffiando, cazzo, ma ci vuole l'acqua sua, l'acqua originale, a tutto ci vuole. Noi aiutiamo, sì, però non fa niente quella. Ci vuole l'acqua sua per tutto quanto. E adesso tu vuoi troppo, voi. Catta, già te ne arrivi nuvoloso, ma non si sa se fa qua o se fa qualche altro posto. Ma almeno se piove non innaffio più io, capito? E invece, capito, tocca innaffiare, a scendere due volte a settimana e innaffiare, mentre se avrebbe piovuto non ci sarei sceso. Sarei sceso solo quando c'è l'erba alta per tagliarla. Allora va bene, ma insomma non si accontenta Salvatore, dai. No, bisogna andare piano. Ma chi gioia da fariserri, chi da tutti, di una piaggia retta riserri, da me, hai visto? Almeno c'ha la frutta fresca. Fuglia. Dai, andiamo via, andiamo. Hai da ragione. Per carità. Cazzo, è tempo, cazzo, di cominciare, cazzo, a piovere, che invece, boh, di facevo, di non li farli. Invece, nel culto, la merda passata in lunga lungo, sarebbe stato meglio, però a noi non ci accontenta. Si vede che chissà se siamo mari noi. Non ci vuole bene, no. Ha detto che se la fa disugnare. Allora, se la fa disugnare troppo, cazzo, per carità, Salvatore, Salvatore. Lasciamolo fare quello che vuole, cosa vuoi fare? puoi fare niente. Ma dai Gesù a pregarlo, ma e non sta pregando, non li fate il battesimo. Se ti piace così, se non ti raggiambi. Io metto il piano e basta. Ti faccio accontentarti. Bella, se vuoi fare. Viva, se vuoi fare, si cazzo la bacia di Caglia, ragazzi, un capitano, la foglia Eva, cazzo, lui, il Sanzola, cazzo. E se ti vedeva il Sanzola, e io non lo faccio, io mi ribilizio. E così? Qua è sempre tardiva a passare l'acqua. Cazzo, il fatto che io, ragazzi, lo facevo, ma con un bosso di miele, mio, a tirare Eva, ma in la piana. Ah, che quello c'è. Molti posti sono secchi, non c'è acqua, perché non ho piovuto. Cosa vuoi fare? Qua ha detto usare i valori. Si passa, ce la fa di sognare. Adesso fa sognare sì. Chi dà ragione? Non ho sentito nessuno, era sempre acceso qua. Non ho sentito un'anima. Evidentemente sono tutti in letargo ancora. Per carità. Grazie, ave sempre mandate fotografie in cornese, in crociera e catta la parte all'altra, la pazza gioia si sta dando. Allora dimmi tu, e noi catta come teleremite che c'è più sarrado, che c'è più giro. Ma vai che ci manerò quadro a Darido e ci fate il voto e fate vedere che andate in civi. Fini in nera. Che fosse acquisito. Allora, fatta, me ne faccio a pigliarsi in giro. Allora se fottendi, allora se fottendi. Non va bene. Cazzo, perché noi quando mandiamo la forza la mandiamo originale, la mandiamo, perché lui ci sta fregando, così non va bene. Allora bisogna a gridarlo forte quando lo sentiamo. La figlia di porta il posto e sta il posto e cosa si buona a danzi, ecco, ingrandisce un po' e fa vedere che sono andati in quel posto lì. E dice, guarda che bello che era. Ah, ho visto che mi ha mandato la foto in un faro era, lui e la moglie, ne stava uscendo da dentro. Però questo faro, a quanto ho guardato, non lo conosco, non lo conosco questo faro così lungo, a piramide, chissà dov'era, non lo so, e poi ne ha mandato altri con dei segnali strani, e tutti scritti in inglese, che stia facendo il trucco. andiamo. Allora, a noi si potete, cazzo, immaginate, cazzo. Magari non intendo, non è un buon cugliarico, si può fare un capacacco. È vero, ma le botte dei botte a Darido in inglese, hai fatto vedere che eri in civi, ma... Via fare di tiro, via di tiro, che non le mandi a più, ma fotografie rifatti, fare queste caricature, noi vogliamo solo roba originale. Certo, non vi vuoi a pigliare un posto, ermanno, punisce ad Anzi e fa la fotografia, sai vivo. Ah, così è. Fatto a dire agli altri ignoranti, agli altri casca, l'ho capito. Certo. Io al viaggio di fotografia che gli ho fatto a Londra. Ma sono originali però. Ah, io quando le faccio originali, so. Che sono più genuine, grazie. Fatte di quell'altra maniera, no? Mentre l'originale, almeno sei tranquillo che se l'originale va più bene, va. Ah, infatti. Quando sono originali sono più belle, sì. No, da una stamposte. È bella cosa. E magari non sa manco di gallo guè. Che tu faro. E allora? Da voi l'ha mandato un'altra. Il far west. Il far west. Tutto scritto in inglese. E che ne comprendia. C'era un palo con dei pezzi di legna con le scritte sia a destra che a sinistra. E le città, capito? Caso di città da Ruzzo. Se non si può allontanare senza cose, senza uscire, senza nulla. Attendete che anda. A me mi pare che ha fatto questo segnale di tavola con il clicca e l'ha posto un terrazzo, un pallotto portanico. Da poi sono posti ad Anzi e hanno fatto vedere che era lì. Che cosa, in Nova York. Ma sta fottendo? Sta fottendo sempre. Andi a cercare quelle isa, capito? Vabbè. Vediamo un po' se c'è signor Bacchisio. Signor Bacchisio. Non sarà rientrata ancora? Niente a fare ancora in campagna. E preparati la macchina. Per poter rientrare. Oh, già rientrare. Se no entrando in garage. Un attimo. Sono qua. Eccoci qua, sto. Sto guardando la televisione anch'io. Aspetta, ho abbassato il volume. Ho capito, sto. Aspetta, che sto guardando la televisione anch'io. Cosa fai io? Io sto parlando e guardando la TV. Adesso stavo parlando al telefono e non si capiva nulla. Allora ho dovuto abbassare, fermarmi un po'. Fatto questo. Così. Attenzione, signor Battigio, se ci sei da un colpo, non da da fa. Ah, va, cazzo, che sono mugato. Ma va, sta rientrando, Sta rientrando senz'altro, Ho acciappato l'intoppi. Insulta, hai sentito? Che ogni tanto trova l'intoppi e si intrattene. Infatti, è così. Cazzo. La passata la musica di Tre Luca Librazzi ha fatto una musica. Infatti c'è la ciappa in toppi. La ciappa sempre vicino al garage. Ah, fitta, pure la buttata della legge, ma appunto Cazzo, non mangiare sempre grattenti gioco. Cos'è? E la buttata della legge. Cos'è da appunto la cintura? Capito? Sì, ho capito, sì. È così, Oggi Ciucciucco non è entrato ancora. Certamente è impegnato anche lui oggi. Ma sei in giro? Quella che avete chiuso ieri. Ah, alle 8 io le ho lasciate, anche Bacchisio alle 8 va a chiudere. Perché Bacchisio va, cioè, a quell'orario. Più o meno anch'io, Più per giù, prima delle 8 chiudo sempre io. Sì. Per cui va. Poco a poco almeno ci sentiamo la sera, ragazzi. Si faccia la macro in tremo. Anche Alice, anche Buccia entra. Se non andare nessun luogo. Chissà, infatti. Poi nasce Arimani, o Arimani. Arimani chi si vera Giuseppe Leoncino, vera? Ciamendi. Ma io non potevo rispondere, stavo facendo cose, però l'ho sentito che stava chiamando a me e a Antonello. Fatti. sta se ne è andato a passeggiare, sta a girare, a pigliarsi un po' caretto di vento, di freddo. Andava. Ehi, uia. E noi invece, Gasalini. Ma. Di essere la sera la maggior parte, capito? Sono giovanissime, per cui vanno e si bagnano un po' la bocca, capito? Vabbè, così. E noi ce la bagniamo in casa, Deva? Beh, come sta l'ordine del giorno. Se acqua smeraldina. E purifica. Io sto bevendo sempre acqua smeraldina, però ogni tanto anche dell'altra, capito? Però la maggior parte bevo solo smeraldina io. E fai bene, almeno l'organismo gira bene. Sono un mezz'anni, sono un mezz'anni che sto bevendo quel tipo di acqua. Prima prendevo stava a coppo qua di fronte quella in cartone, il cartoncino, poi i cartoni adesso non ce n'è più e la stanno facendo in bottiglie azzurre. Sono azzurre le bottiglie. È buona, sì. Buonissima. E poi la becchiamo intanto, abbiamo preso anche San Benedetto. L'altro giorno, l'altro lunedì abbiamo preso un bel po', e cioè, la mischiamo, capito? Infatti è così. Già è buona. Attenzione, signor Battisio! Non da qua. Ah, bene, male che c'è ancora c'è la vendendi. E lui la memoria che c'ha a Bosi già vendi, Battisio e c'ha la vendendi, a conti suoi. Andiamo. Ora porto io la macchina in garage, già viene a casa sua. Là. Può essere anche. Può essere anche. Sì, almeno ce la sanno la macchina, cazzo, rimane riservata. Non vi raddocca lì. Cioè, andassare lì il parcheggio, perché se per dietro una bacia all'altra, l'altra casa Giulia. Si vede magari il parcheggio, non viene mai. Allora sappiamo. Ma il garage è suo, no? Ah boh, non lo so, no. Ma penso di sì. Così che se la mette in garage la macchina rimane più riservata, ecco. Di altro chi ce l'ha il garage? È una cosa buona avere il garage, certo. Purtroppo noi abbiamo un magazzino, ma la macchina non c'entra, e per cui va bene così, va. Noi la mettiamo fuori. A me me la toccano sempre in parcheggio. Cada dalle lunghi, cada a pigliare la ciappa, sempre anche strisciata la ciappa. Ma se cadu poi, li strisciare e si innandali. Sì, a me io mi ho tutta graffiata dagli sportelli. Non finirà ne graffi nei sportelli, neanche se qualche mancaduri che via. No, nei sportelli non finirà, è tutta graffiata nei sportelli. Allora, è vero, guardi, lo sportello tu anzi, ci fracassate, cazzo, la carezzare, cazzo. Boh. C'è una ditta ancora attaccata alla macchina, vernice azzurra, cazzo. Non è assai, però, i due non sia una batte che all'altra, ma è toccato. Voi strisciate, vi so. Ho provato con un coso, con la cavallina, ma non esce, bisogna fregarla bene per poter riuscire. Certo. A me mi dà la candela che ti è passata. Dove arrivi tu che c'ho? Una banda. Sta cassata, sta coso. Se ne va la moglie, un po' è per la macchina mia. Ha detto signora. Certo, da voi. Devo buttarla io a un carrozzieri per farmi la vernice, che me la siete tutta ducchenni. Sai cosa mi ha riposto mio marito? Che si ne ha tutti, mi ha riposto. tagli, tu entri, entra dentro, ti dice come fai bene allo sportello, che c'è del piazzuto? Cattivo così, va via a alla Bricoman. Caccia, ero fermo in parcheggio, entro fuori strada, fa manovra, si vede che c'era qualche posto, invece gliel'hanno preso, quello fa l'inversione, caccia la piccola macchina mia, sicuro proprio dove c'è il tappo del serbatoio della benzina, ha fatto una macchia manna, mi ha fatto. Cazzo, gira gira, corsicano era, di Corsica era, che sono venuto a prendere materiale, cazzo, allora cosa facciamo adesso? Dice che faccio l'assicurazione, mi fa, ma ha bisogno di cazzo, io me la devo rifare subito, devo aspettare nessuno, non me ne voleva, va, babbo è tanto con la bicina e fa vedere, va bene, e già me l'ha dato di 750 euro e me l'ha giù fatta così, magari ha giù pagato 300 euro, vero io. Non stati attento a nulla, non stati niente. E lo dico che sono grande uscito, ci avrà una sorpresa. Cazzo, roba la macchina. Cattivo. Sono cattivo, che c'è parcheggio, che parla di macchina. Cattivo, so come ti fa di arrivare. Che c'è niente, che tocca e si manda. Dacci un bigliettino, no? Cattivo, nulla. Sì, che la c'è la macchina e si manda, ricatta, che la roba la pazza, cazzo, il taglio, come ci si vede proprio niente, proprio di una maniera, no. Io ripeto, è raro che tocco qualche macchina, rarissimo, però quando mi è capitato di toccare appena, cazzo, mi sono fatto sentire, capito? Sì, 15 giorni fa, sono entrato in posteggio, ma che è entrato in posteggio? Mi ha posteggiata, sarrata, arrivi la benzina, boom! E va via lo... fa fortuna va via lo... il gancio traino attaccato, e si occupa il gancio traino. Ma sono agganciato, il barauti si hanno agganciato, agito! Ma... male ti sei fatta la gente. No, non mi sono fatta niente, poi ho distrutto la macchina, non è colpa mia, la colpa è tua. Cazzo, se tutti la bisi magari già va il discorso. Ma quando uno tocca e si manda, cazzo, non è giusto che ci faccia così. Ecco che si. Cazzo, un'altra, allora la mia abbigliata lì, ma con la ghiglia io la macchina mi abbigliata, in via Mendola. Cazzo, all'angolo di porcellare, io mi sono confermo per entrare in libreria, però c'era una panda davanti a me, una panda a ruina, allora pidia che era per le manovre a Baicini, questa panda, no, cazzo, poteva dare certo a tutto quanto, Maria che non sappiamo ma cosa fa, mira mi tocca la macchina, madonna, la macchina nuova, cazzo, io via cazzo, tu sai poi ci vuoi andare, ti dirò cosa niente, già adesso dice con un po' di casa passiva, dice, ecco, te la devo fare io, mi ha fatto tutto l'altro, e devi fare tutto io, tu non ti andai, no, la macchina, mangiamo i carabinieri, fai te su così, mangi, ti do, ma non mi la metto, mi ha dato di 400 euro, mandato, meno male, tu avanti, ti vuoi pure andare. Cosa fea è ne così è brutto l'unica cosa è sta attenti a chi c'è gatta che vengono a punire le macchine in luoghi guardi cazzo No, i cadri attenti, no, no, i cadri attenti, siamo a tutti, ragazzi. No, che ne si manda, cosa me lo pensano anche, pure vedi, di qua c'è la macchina, ragazzi, no, per me c'è. Vabbè, purtroppo tutto va sempre bene come vogliamo, anche queste cose succedono. Attento, signor Marchisio, niente da fare, chi se c'è zero non la senti. Chi è? Questo è lui. Boh. Ma chi? Oh, non mi più in Maria Luzio. A me pure, no. Il segnale è abbasso. Attento, signor Marchisio, se sei tu, dai un paio di colpi importanti, aiuto. Allora, gli hai vedo. Signor Marchisio, non vuoi il microfono? Non stai uscendo. Cazzo, ho visto che mette caduto a appoggiare i righi su lui gap, su fa Dio, gatto, ma si l'abbia abbiassato, gatto, l'abbiamo inteso un bel spesso, gatto. Boh, mi sono dimenticato a salire. No, faccio veramente pensato, no, per arrivare ad altro non mi serve a me. Signor Marchisio, non da va. Un po' che ci vede, un po' che ci male, un po' che non ci niente. Ma chi? Va bene che siamo in una certa età, però lo dico io, Ai te, non mi pigliare intendivo, la radio che non intendiamo. Signor Battisio, venga a locale lasciato, un microfono. Vamos a ver. Ai, la mano si piace la voce, ma che avete tenuto per motivare? Adesso mi senti? Adesso sì. Ho cambiato radio. No, tre microfoni ho provato, tutti tre in una mano sono andati. Tutto strana mole, non ho sistemati bene. Vabbè, che andiamo. In tutti i modi, buonasera a tutti e due. Buonasera, signor Marchisio. Andiamo. Si prende la Gio Maria. Ma non lo so, questo Marchisio. Ava il microfono, non può passare sempre quando fine di fare la sera, no? Si spegne tutto. Faccio come te, invece bisogna che stai sempre toccando, come te, e di buon pizza, Marchisio. Capitina, buonasera comunque. Buonasera. Cosa tu chiedi? Ho provato tre microfoni, tutti e tre in affanculo sono andati. E poi c'è di arrofasio, cazzo del buona puzza, allora io. Tu. Andava sempre vescovo, qualcosa. Cambiato microfono, sempre un casino mi succede. Adesso, quando sei dottore lì, portami il microfono originale suo e lo troviamo a punire. Hanno cominciato a andare male i microfoni, per carità. Oh, meno male che funzionano tutti a perfezione. Cazzo. Anche quando, funziona bene, addirittura l'abbondanza. Cazzo, anche non agisce di mattalambe, Luca Bugunetti sempre. E guarda attento, devi funzionare per forza, se no ti ricordi un montassaio. Infatti, no, non c'è un nuovo, bisogna che proprio l'attacco. Bisogna che ci metta lo spinotto, ne ho uno nuovo, che l'ho comprato a Tonino, ma è usato. Provo quello lì a vedere un po'. Domani mi appento e lo posto. Beh, è chiaro, bisogna pensarci. Bisogna fare così, allora signor Bacchì. Ma piove o non piove? Ma freddo già ce n'è, vento, freddo, nero, sei in abbondanza. Ma 70-80 km all'ora adesso. Tutti i vicini, ma ha messo anche acqua, ma mi sembra che l'acqua è lontana da qua. L'acqua poco a poco. Per carità, ragazzi. Avanti, signor Tò. Ha detto che bisogna riservarcela dal rubinetto. Boh, ogni tanto che aprivo un rubinetto, ogni tanto esci tutta la ruggirosa. diceva, a momenti però succede che ma mi sa fa cosa, oh vabbè sono a consente oggi, e dire che l'hanno cominciato a consentere chi? Ma non mettono la nuda che ho male, ma che aspetta ma è ritirato un ufficio d'occamento, lo mandano a dire a consente chi mi l'hanno quella in la strada cazzo. Stavano aggiustando lì, stavano aggiustando perché c'è la faccia da un tubo, c'è il fasciato in TV, ogni tanto viene in faccia qualcuno e si appureggiano. Si faccia in una cosa in un luogo e si faccia di andare altri. Ma te hai detto che per vicino a prima da te lo metto, ogni tanto si faccia. Meno male, ma chi se non lo fa problemi per lei, ma così è Bacchi. No, non è problemi. Vieni in culla. Sarà in pulla per Gianmarie. Ah, te è fatta, cazzo. Dai, così me lo muovo, cazzo, così la leva, cazzo. Allora, prima si poteva usare, ma prima il rubietto così non si può usare, così che non capisce a comporare la leva. Non basta che sa che si fa magari a manova. Chi sa pure un bagava. Sì, ma la televisione ha detto stanotte che è la latte dolce è potabile. Monte Rosello è potabile, Sassari Vecchio no, ho capito, ma la zona della Sedolce, cioè Monte Rosello è potabile. Oh, vieni là, magari forse che a casa la zona, io, nei luoghi non è possibile, i luoghi ogni tanto va la ruggina, terra, non hai idea, si può immaginare, ma che forse che la zona è così, ma la zona non lo so più, boh. In Ochiburro non è che sia pulita, levalo. Buoni da data, vai di rugginosa. Cazzo, ma tu te immaginerei, però è la fase del magacara, la mazzina la zintola, la mazzina. Cos'è? La mazzina che mia mamma un bacio di zintola ai nonni, e mi ha dato ci fanno vedere. Ah, così? Hai già un attimo che ne ha visto un'altra. Vai, come vai? Avanti, signor Bacchi, cosa hai combinato di campagna? Dimmelo. Oggi, grande manovre, oggi abbiamo fatto grande manovre, abbiamo molto zappato, capito? Molto zappato per gli agrumi, prima i faeva, ammazzai sebba, se no crescerebbe. E ancora lì non ho molto zappato, mi sta crescendo un bel di erba attorno al tronco degli agrumi, perché sono innaffiato due volte alla settimana, no? Ma è crescendo un bel d'erba. Però ancora non è molto zappolo, ancora no, finalmente che fa le piogge è bene, e poi da su un basale che è appena cresciuto, un pochino da buio con la mezza drivolata, sì. Forse uscisse, fa ancora, è tosta la terra, come ti fai, là? Non la possiamo molto zappare lì, manca l'altra parte, capito? Che magari a te più è farinosa il terreno, per cui anda bene, va da me, argillosa, bacca e zanga, se lo fa te, ma è troppo dolce, ma chi? Se sei io è argillosa, è tosta, allora è una farina, è uscito proprio bellissimo, un sacco di cose, di più valore. Gli agrumi li innaffiano a goccia, fa la leva in un tronco proprio, e i bani nasce poco e nudda, capito? Non è con la ciotola ne nasce di più, ma quando fa la goccia, fa la lungo il campo della pianta e ne esce elba. Io ho visto che le piante delle agrumi sono belle, colore suo proprio, no, adesso sono un po' gialle le foglie, no. Boh, anche l'anno scorso, perché l'hanno passato, non l'ha ginnaffiato mai niente, infatti la Lazio non va maturato, l'hanno passato, acca non doveva fare più maturo, ma sono così più da fede da un mese, da un mese di maggio sono così più da fede di bruciare la ghizza, e per cui, però la pianta non è proprio il colore suo, capito? Mentre a te invece è bella, fresca, la si vede, ma tu innaffi anche perché pianti qualche cosa, magari è radici la tira l'umidità, capito? Mette la mente diversa, e la giù me piacimi, non è che la giù bocuno, cazzo, io la raggio a drentire più la paraggio. Cazzo, e ne allora, ce n'è. Quando vengo a Caranzo Buro, ma ne parendi, il casino lo pensa, tanto una lampada in terra, è diventato un tappeto. Infatti, allora, se andrò a vento, ma dico sì. Un cacco va fatto così, magari. Però un cacco a caso, la pinna c'è un bongo. Era un bongo, che fai se frasi che di, se questa di là, quando a toccarlo, ma chi? E ne fare, era un denaglio per un vemmo. Ah, ma dimmi tu, già fino a poco. Questo bongo, che fai tutto quello vemmo? Sì, sì. Perché so che la cosa, la cabina elettrica, c'è un amico, lo vedi dietro un cacco. Accanto la giuvica di Antonio, e se abbiamo un cacco, prendilo sì. E cosa fa? Se vuoi bene per fare il nero, il cacciò più buono. Sì. Su dentro ne poi c'è fa uno. Io viaggio 6 alberi, 7 alberi, mi viaggio, ma che? Un anno un cacco è fascia dura, un anno faccia. Sì, si guasciava, un mese li guasciava, però non come che c'hanno, certo, non ha posto, qui c'è un cacco, non ha posto le parenti e che è grumemmo, boh, strano proprio, Ah, ma devo andare, con socio piglio almeno un quintale di un quintale venuti con cime, di 12-12, e vi rubongo un po' il drocco a vedere questa cosa sul fili. Che è da bollina a giove. E con socio non esiste più, da cosa bisogna andare, come si chiama adesso? Scano, di fronte alla vecchia banca della Sardegna. Oh, di fronte a Banco Sardegna, che via? E cosa, in presa niente. Vabbè, ma questa detta. Mi sembra lì è da vicino a Bambina Gialla, mi pare che. Ah, ho capito. Ho capito. Vai io. Guarda che dà, un miglio che dà, da lo cucciuccio, il miglio sempre. Oh, sono un bel danno che non riconciumo, Però vabbè, voglio andare una degli sti e mi invito a quintare da poi per un poco e a visitare un drocco ogni tanto, un'aiuta e vediamo un po' cosa succede, si le piante, si. Oh, sarebbe stato bello avere l'isallattico che è l'unico, però è troppo caro, come ti fai a prendere l'isallattico? Una bella aula. Non ti basta 150 euro in più. Minimo. No, le consulenze agrarie non esiste più, Giomaria, è serrato, fallito. Fallito, E allora, era in via Bugino, era. Si è trasferito in via Bugino, da via Bugino è andata a Pretanieta, da Pretanieta è serrato tutto. Prima rubinava la cosa, da uso da consorzio Sassarese via le portatore naturalmente che aveva fare fatto la cosa, quel negozio grande hanno fatto, rubinava sempre da ivi io. E il sicuro ha salato attenti e aveva caffè che fa con cime Scano e la cosa e l'agricola Sassarese. Boh. E Diaz. Un macello, un macello veramente. Boh. Davvero, mi sono un paio d'anni che vengo. Mi aggruppo un po' strano. A pensare ne ho eliminato i ratti secchi, giusto. La ragione buddha di re puro. C'è anche bombe di luce. È puro. Boh. No, non mi quadra, Ci vuole un po' di consiglio per vedere un po' cosa si ripigliano bene. Ma che cazzo viene pure la fascia dura da me? Un anno, Un garaccio che era un mammo. Invece già l'hanno passato, che stanno un minuto, non così reggia, Saldio allora, sal vivo. È un po' di concimento le cose, Avanti, signor Togo, dica la sua. Aspetta un attimo che mi suoni il telefono. Ah, fa dire il telefono, sempre suonando il telefono. Allora, sento il telefono in mano. Ma io devo dare capo e forza, ma chi vai? Che c'è gente, per cui ne approfitto, vai. Buon procedimento in serata, grazie alla piccola chiacchierita, anche se è breve, ma sempre piacere. Saluto di casa e saluto anche a Tore quando rientra. Io chiudo il bacchino, ok? Ok, Gianmarì, ciao, salutissimi, saluti in casa. Buona serata ancora e ci sentiamo domani. E anch'io, non è molto, tanto 5 minuti e poi ora di merendero. Bene, a domani Gianmarì, buona serata. Ok, ciao, chiudo. Ok, ciao Gianmarì, ci sentiamo. Bacchi, io devo andare a prendere la signora, ci sentiamo domani. Ok. Ehi, ciao dottore, buona serata, a domani, ci lo concide. Bene, mesa. Ok, ciao Bacchi. Allo? Bacchi, ma uscendo sto. Stai uscendo, buonasera, chi sei? Non ti ho riconosciuto? Come non mi hai riconosciuto? Gianfranco da questo. Ah, Gianfranco, buona serata. Lo stavo provando perché non uscivo. Tu stai uscendo benissimo, limpido e chiaro. Ma interessava la radio se era buona. Buona, pulitissima. Quindi va bene così, lascio così allora la radio. Ok. Ma è bassa o va bene? Oh, va bene per la squillante. Ma ti ho sentito che stavo scartolando, ho sentito te che stavi controllando quel microfono, ma a volte non stavi uscendo. Quel microfono che va in non a male ogni tanto. Capito? Va a farci benedire. Bene, Gianfranco, io stavo chiudendo, ho lasciato gli amici perché devo andare a prendere le medicine, sono le 8. Benissimo, ciao Gianfranco, buona serata ancora, a risentirci domani ci coincide, Bacchizio passa in QRT, ciao ciao. Ciao Bacchi, buonasera, dai, ce la riascolta, ciao ciao, saluto in Corea, ciao.